CQ, CQ, CQ, canale 10. Gianfranco. Chi è che chiama? Avanti sul canale 10 se c'è qualcuno che vuole entrare. Ciao Gianfranco, io ti sento. Sì, ma chi sei? Claudio Porto Torres. Ah, Claudio da Porto Torres, perché sta arrivando un po' molto forte di radio. Come sto arrivando? Molto forte di radio, mi sembra molto... un po' cupa, dai. Oh, è sempre così, non mi ha toccato niente. Oh, mi è sembrato come una chiamata sotto, bassa bassa, ma sarà propagazione. Comunque, già capisco quello che dici, anche oggi è una giornata primaverile. Sì, ma molto fredda però, molto fredda. È entrato l'amico Mario di Porto Torres, non so se l'hai copiata. Ah, forse era lui basso, non so se mi riceve. Mario, mi ricevi? Sì, mi arrivi un po' bassino, però già insomma riesco a tirarti fuori. Claudio, ma stanno parlando? No, stavo ascoltando che rispondevi. Non pensavo che stessero parlando, per quello che non sono intervenuto. E niente, se c'è qualcuno non lo sento, sento altre voci, ma sicuramente sono di propagazione. Stamattina c'era molta propagazione dall'est. Può darsi, comunque tu stai arrivando molto bene per essere a Porto Torres, dovrebbe quasi 9. A qualcuno io a Sassari mi hanno detto 9:10 o più. Ricordami, tu sei esattamente di fronte al faro, giusto? Sì, esattamente dove c'è il faro. Ah, ricordavo bene, quindi dovrebbe essere una Mantova 1, se ho visto bene, perché ogni tanto ci passo di lì. Sì, c'è una Mantova 1 e una GPC della Comet, è una mini Grand Plain per i 6 metri. Ah, ho capito, ma puoi operare su quelle bande, sì? Ripeti che non ti ho copiato bene. Aspetta che forse per Porto Torres devo un po' aumentare qualcosa, perché sto andando con 2 watt. Guarda se così va un pochino meglio. 5. Sui 5 di Santiago. Una radio un po' bassina. Bassina. Vediamo un po'. No. No, ecco. Adesso dovrebbe essere un pochettino poco più forte la radio. Lo vedo dal picco qua, dai picchi dell'apparato. E niente, stavo dicendo, ma puoi operare anche sulle altre frequenze, interrogativo? Io no, mio figlio sì, io no. Ah, ho capito, quindi non puoi usufruire come si chiama, no? Del nominativo, ecco. Tutto lì, niente. Sì, adesso anche qua si sta mettendo freddo, e quindi insomma caldo freddo, quindi non si capisce più niente. Ma magari chissà quante volte vi siete collegati in corso. Sì, probabile. Io parlavo spesso con il collega lì che è di fronte alla caserma dei carabinieri. Gianluca. Sì, se non ricordo male, sì, Gianluca. E poi ce n'è un altro, c'è Lino, anche lui è OM. Lino. Sì, ma se non sbaglio, adesso non so se la stessa persona, ma opera solo in telegrafia, cosa del genere. E comunque è già un po' che non lo sento più in radio, neanche in altre bande, non si sente più. Vabbè, a volte si hanno altri impegni, quindi non si può sempre stare in radio, quindi si deve fare altro. Ma oggi non c'è neanche Natalino, Natalino esci fuori. Di solito è un macalai. Natalino, spegni la televisione, dai. Ma so che ora in lite col vicino. Sai, in certi posti è un po' tutto complicato, ecco. Comunque adesso che la TV è passata in digitale, no? Non deve più disturbare il baracchino, entra più nella sua parte, insomma. Chissà come mai lui è un po' con mezzo a quei casini, boh. Ma lui non è nel casino, sono gli altri che sono ignoranti, perché sono tutte antenne marce, tutto un marciume, c'è chi sta ricevendo col solo cavo, guarda, insomma in quella zona c'è un'incuria, poi si lamentano quando ci hanno pure torto. Cosa ci vuoi fare? La gente purtroppo è strana a volte, molto strana. Guarda, sto collaudando un altro parlante di SP che avevo acquistato e mi è arrivato stasera, l'ho appena collegato e funziona. Ti dico che mi elimina quasi tutto il QRM, sono contentissimo. Hai detto un altoparlante DSP, quindi digitale praticamente. Sì, viene fabbricato in Inghilterra dalla BHI, lo distribuisce la WIM in Germania, e con la storia online in tedesco. Funziona, ero un po' così a non prenderlo, invece poi l'ho preso e ti dico che va benissimo, anche a mano laterale, toglie tutto, ti lascia proprio il parlato proprio pulito. Sì, io ce l'ho sugli apparati direttamente, che sono tutti nuovi, quindi c'hanno vari filtri, eliminazione del rumore e così via. Lo fanno già loro internamente, non c'è bisogno di aggiungere altro. Sì, ma con questo non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché apparati ne ho avuti tanti e ce l'avevo anch'io col DSP. E ho avuto il 756 Pro 3, ho avuto il 1000 MP Field, insomma ne ho avuti parecchi. Ma questi sono apparati recenti, molto recenti, ti fanno anche l'analisi del segnale, quindi la radio oltre ad ascoltarla la vedi pure il canale, capito? Sei in grado di vedere tutto lo spettro di frequenza, cioè filtri diciamo a volontà, poi anche quando chiudi molto addirittura il segnale sparisce, quindi figurati di cosa stiamo parlando, ma se l'attività dà paura. Sì, lo so. Non so, guarda che sono tanti anni in radio anch'io, no? Sono già abbastanza ferrato. Questo è tutto un progetto molto, molto buono, un progetto molto buono che ha fatto questa ditta inglese, e lo puoi vedere anche su YouTube, che fanno parecchie prove. È una meraviglia, va veramente bene, c'ha 8 filtri selezionabili su 8 livelli diversi e poi lo puoi anche bypassare, insomma non è. Poi tramite una scatoletta puoi addirittura usufruirlo su suoi apparati diversi. Ci avrà un commutatore. Ma l'ingresso è sempre dall'audio? Sì, esatto, dall'audio. Però c'è anche, siccome che ci sono vari modelli, che si può anche inserirlo si collega alla media frequenza dentro, e solo che io quello non l'ho voluto prendere perché non, le mani dentro non ce le metto. Ho preferito questo qui esterno, mi va benissimo lo stesso, anche se quello sarebbe costato molto meno. Sì, io infatti c'ho proprio quelle uscite di fighe che servono anche per mandare il segnale delle radio digitali che trasmettono in onde media, perché collegandole all'altoparlante non si possono sentire ovviamente per questioni che non passano i dati. E poco fa lo stavo provando con le radio commerciali in AM e in 41 metri su di lì, no, è una meraviglia, tira fuori le radio commerciali proprio veramente uno spettacolo. Sì, anche quando attacco quella presa lì, ma io quel lavoro lo gestisco da computer, capito? Quindi fa tutto il computer. Anche perché ho ricevitori interamente dedicati anche all'uso col PC, oppure c'ho anche quelli misti, dipende dalle circostanze, insomma. Di sistemi ce ne sono tanti, poi. Qua fa sempre più freddo, ti dirò. Sta calando, cala così in fretta la temperatura, al caldo al freddo. Cos'hai, SDR? Sì, SDR, ma professionali, e non pensare alle chiavette. Le mie partono dalle 250 a salire fino ad arrivare oltre 2000 anche. Li conosco. Sono un'altra cosa rispetto alle chiavette. Sicuramente sì. Io in questi giorni sto trafficando con una lupa magnetica. Stavo mettendo su troppo per le onde medie e onde lunghe, però come interno non va bene, insomma, riceve un po', però voglio provare a metterla fuori. E devo cambiare il cerchio, devo mettere il rame, e maggiorato, un pochettino più grande, e vediamo che cosa ne esce. Il problema di quelle antenne non è tanto fare il cerchio, che è abbastanza facile, e procurarsi un condensatore per farle un buon accordo, perché sono molto strette come banda, soprattutto se la usino onde lunghe, è una cosa abbastanza complicata a trovare quel tipo di condensatori. Forse qualche cosa sul plus magari, perché per avere una resa ottimale è indispensabile. Ho visto qualche kit su internet, anche per le VLF, è una cosa che è molto interessante, che mi sta appassionando, le VLF, ma la bassa frequenza. Mi piacerebbe piazzare qualche antenna. Sì, man mano che scendi ci sono vari segnali, ci sono segnali aeronautici, c'è il solito Navtex A490 e A518 per i bollettini dal mare e gli avvisi ai naviganti. Poi ancora più sotto ci sono, adesso non mi ricordo la frequenza, ma credo che sia 75 kHz, ci sono i segnali di tempo, no? Quelli che utilizzano gli orologi di casa per stare sempre a punto. Sì, ma so che in bassa frequenza così, parlare anche, trasmettere anche sottomarini, roba del genere, mezzi subacquei, eccetera. Anche per quello che volevo provare a fare qualcosa, ma vediamo più avanti. Sì, però non è che sia un uso proprio generalizzato, perché oramai hanno una specie di boa che sale, trasmettono col satellite e poi la ritirano sotto, ma sono tutte trasmissioni ultracriptate, quindi sono difficilmente sono, come dire, praticabili, ecco, per gli hobbisti. Poi lavorano anche con altri sistemi proprio per garantire la sicurezza. Sì, è cambiato tutto oggi, adesso si stanno trasferendo tutti in tetra e altre cose più evolute. Sì, beh, il tetra è dedicato, diciamo, di norma una grossa fetta ai servizi di ordine pubblico, però lavorano dall'UHF in su, quindi stiamo parlando dai 380 mega fino ai 420, credo. Più sotto non può andare perché non funziona, capito? Stavo provando anche quel benedetto di Star, ma no, l'ho mollato, non mi piace. No, non ho capito. Hai detto che stavi provando? Il Dispar. Ah, ma praticamente ormai non si sente nessuno, perché è un sistema molto vecchio, è un sistema proprietario, e quindi non... oramai c'è di meglio, c'è il DMR, che tra l'altro è a doppio slot, quindi su un canale puoi andare anche in full duplex su un singolo canale, e poi c'è anche il CF4 della IAESO, ma anche quello è proprietario, funziona sicuramente meglio del coso lì del D-Star, però è sempre un sistema a singolo slot, capito? Quindi c'hai solo una comunicazione e non due, o come il DMR, o non quattro come il tetra, ad esempio. Sì, infatti è sicuramente migliore. Ecco perché vedo tutti quelli come sul mercato dell'usato col D-Star, se ne stanno sbarazzando, ma sono apparecchi molto validi, tipo il 5100, il 28, così, sono buoni apparecchi, e purtroppo è andato male con quel D-Star. Perché, ripeto, sono scelte che fanno loro, ma non sono cose generalizzate, capito? Come può essere, che ne so, il Tetra e gli altri che sono usati anche sul civile, e quindi sono più diffusi. Loro vogliono fare le cose, però poi ognuno si fa il suo digitale, però poi non glielo compra nessuno, perché non è che si possano avere 20 sistemi per ogni cosa, ecco. Sì, infatti. Adesso è migliorato un po' come segnale, mi sta arrivando 7, anche la radio ha migliorato molto. Guarda, io non ho fatto praticamente niente, sono sempre, adesso quante, aspetta, perché non è che si veda molto la lancetta, sono credo 5 watt, quindi la radio è più o meno sempre la stessa, ecco. Tu quanto stai andando? In una ventina. beh, allora sei 4 volte più della mia potenza. Io sto usando una Game Master, e niente, in questi giorni, l'altra settimana, due settimane fa, quando c'è stata quella bufera, ha preso certi colpi che era in orizzontale praticamente, però non le ha fatto niente, nonostante le raffiche, mi ha danneggiato altre antenne, però quella è rimasta lì dove era. Ce l'avevo anch'io la Guy Master. Togliere perché l'ho vista praticamente a L, colpi di vento fortissimi l'anno scorso e quest'anno ci sta dando vento, arrivano raffiche molto forti, l'ho tirata giù prima di spezzarsi, l'ho messo su una mantova 1, questa è più che tranquilla. Io mi ricordo che quando c'era stata quella tempesta qualche decina di anni fa, a me mi era partita la mantova 1, si era spezzata, a me che era un mezzo ciclone, però si era spezzata. Ma con questi eventi oramai saranno, non dico all'ordine del giorno, ma all'ordine del mese, quindi ci dobbiamo abituare, ce l'hanno già detto. Sì, ho seguito un programma di un meteorologo, quelli che studiano il tempo così, e diceva che nel Mediterraneo si sta formando le stesse caratteristiche uguali come sono lì al Golfo del Messico, uguale. Dice che qui sarà sempre a peggiorare, con pericoli vari. Sì, infatti anche oggi sto modificando le antenne proprio per quello, le sto leggermente abbassando, quindi per avere più sicurezza, ecco. Prima erano un pochettino più alto, le ho tolto quei 2-3 metri perché sennò si danneggiano sempre, c'è poco da fare. È difficile tenere le antenne in ordine con consumi di venti quando inizia ad andare sui 140 km/h, insomma, sono guai. Ho voluto comprare il Bicom, ho fatto una spesa un po' più del dovuto, ma ho visto che va bene, tiene benissimo, l'ho preso da 4, Bicom da 4, e c'è sul palo da un pollice e mezzo, di 6 metri, no? Sta tenendo molto bene, fino adesso. E anche la Comet, la GP6, anche quella va abbastanza bene. Ho fatto qualche tirantino giù di colpi di fuori, che non si dovrebbe, però ho dovuto farlo. Sì, la GP6 della Comet ce l'ho anch'io, è simile, anzi uguale praticamente alla X300 della Dynamo, infatti alta 3 metri. Quella l'ha un po' danneggiata, quindi ho dovuto fare dei lavori per metterla di nuovo operativa. L'altra lo stesso l'ha danneggiata perché era troppo forte qua il vento e quindi anche quella lì è stata riparata. Quindi insomma, di lavoro c'è sempre, io sono già più di una settimana riparando i danni di quel ventaccio, così almeno quando arriva il ciclone le faccio trovare tutto pronto per essere ridistrutto, se no se trova roba guata si lamenta. Vabbè, siamo in pensione, quindi dobbiamo pur impegnare il nostro tempo almeno nelle cose che ci interessano di più, che ci piacciono, il nostro hobby, così. Però speriamo che non faccia danni, perché insomma i soldi non crescono, ce ne sono ben pochi. sotto si sentono, si sente gente, deve essere propagazione. E di là a me, che oggi 10 volte sono dovuto salire e scendere sul traliccio. Domani lo stesso. Il tutto per mettere l'antenna in sicurezza, perché non ci voglio più, in caso di necessità le voglio smontare dal basso, capito? Le voglio smontare dal basso senza più bisogno di salire sul traliccio, perché a una certa età inizia a diventare pericoloso anche. Sì, infatti è così, stai attento, non rischiare, magari se c'è qualche nipote chiamalo, fai salire a lui, così, come faccio io non mi arrampico più, no, non ci penso neanche, è così. Io avrei voluto mettere una bella longuard, però purtroppo i vicini non mi danno il permesso di stenderla, almeno per le bande basse. 80-160 e niente da fare, mi devo arrangiare con quello che ho. Tu che sei in una zona di portuale, diciamo, che sicuramente conoscere tante persone, perché non ti procuri una di quelle antenne nautiche che sotto hanno l'accordatore e vanno su tutte le frequenze? Non dico che sia il massimo, però sicuramente non è neanche il minimo, perché sono comunque sempre antenne di 7-8 metri, con quell'accordatore sotto fanno miracoli. Sì, ci avevo già pensato, ne avevo trovata una e caspita, ma la voleva quasi 500 euro, troppo, e lo sto sempre guardando. Ma no, salterà fuori l'occasione, ma quella cifra lì non ce la spendo sicuramente. Sono delle belle antenne, sono a prova di mare, quindi messe anche così su un piccolo palo, su una cosa del genere, ti durano una vita, è per quello che costano care. Prese nuove credo che vanno sulle 900 e passa, perché poi sono tutte trattate, anticorrosione, tutto in acciaio inox, quello vero che il mare non le fa niente, insomma, hanno caratteristiche particolari, per quello che costano carissime, e poi ci devi mettere sotto anche l'accordatore, quindi quelle 300-400 euro in più ci devi mettere. Sì, c'era una marcatura in disarmo che la dovevano demolire praticamente, ce l'aveva l'antenna dietro, bella, caspita, veramente bella, era abbastanza nuova e c'aveva il suo accordatore ermetico scatolato e non sono riuscito a farmi andare, niente da fare, se messo in mezzo un altro che c'era la barca vera e sono accaparrato a lui, peccato, era una bella antenna quella. Quando vedono quelle cose si buttano a pesce, perché sono molto costose ed è roba buona, anche sugli apparati lo stesso, io tenne uno qua, lo stesso a uso navale, e poi c'ho anche l'antenna che però non è nautica, ma è diciamo tutta d'alluminio, alta credo 8-9 metri, una cosa del genere, con sotto proprio un accordatore navale che si usa sulle navi, però l'ho fatto arrivare dall'Inghilterra, c'era un'offerta, quindi sono riuscito a accaparrarmelo. Sì, sul mercato UK ci sono molte occasioni, solo che adesso viene male perché ti fanno pagare una specie di IVA, poi spese di importazione, purtroppo se ne sono usciti dal nostro sistema. sistema europeo e quindi adesso è, per noi è tabù. Peccato, perché ci hanno tante cose carine che si possono prendere, prezzi anche buoni, ma non conviene più, come compare negli USA uguale. Sì, infatti hanno fatto, secondo molti hanno fatto anche una fesseria, perché sul commercio stanno andando molto, molto, molto, molto male. Basta vedere anche, è bastato che andassero via gli autisti e praticamente sono caduti nella disperazione, anche roba nei supermercati c'era l'estate scorsa, quindi è un disastro praticamente, alcuni stanno diciamo, come si dice, aggirando il problema, mettendosi d'accordo con i negozi che c'hanno in Germania, no? Quindi fanno questo giro strano, tu la ordini in Inghilterra e poi ti arriva dalla Germania. Sì, l'ho sentito anch'io, c'è tramite questo convivio si chiama, lui pensa, lui compra noi, poi te lo spedisce a te e si becca una piccola parcellina, insomma, e si può avviare, però riuscirà a beccarlo. Io ho anche un cognato che è lì, da quelle parti di Berlino, lì, abita lì. E vabbè, magari una spesa importante, ma per cosettine piccole non conviene. No, per le cose serie, ecco, cose così piccole no, le trovi da altre parti. Ma anche, so che anche molti cinesi sono scappati perché diciamo dei grossi magazzini, no? Distribuivano un po' qua, un po' là, ma adesso che sono fuori neanche a loro conviene, sì. Si sono trasferiti in Germania e in altri paesi europei proprio a livello di magazzini, capito? Per quello che vogliono fare anche un collegamento diretto tramite la famosa Via della Seta per aumentare le esportazioni verso l'Europa. Quindi ha fatto una grossa sciocchezza e l'Inghilterra a fili fuori, ci sta perdendo un po' in tutti i settori. Sì, c'è anche qualcuno in Belgio che lo sta facendo, anche qualcuno in Belgio che si sta organizzando così, anche per comprare roba dalla Cina, roba degli USA. C'è un negozio, uno store favoloso in USA, si chiama Universal Radio, lì trovi praticamente tutto, sì, proprio tutto, veramente tutto, dai manuali a qualcosa di usato, alle quotazioni, è un centro mondiale quello Universal Radio. Magari l'avrai già sentito. Sì, lo conosco, a voglia. Conosco quelli, conosco molto bene anche la casa da cui mi fornisco, Glittera, che è in Germania, cioè proprio la succursale europea in Germania. E poi anche altre marche, comprato anche dalla Vimo, diciamo che è un po' cara, però c'ha un bel assortimento, anche quella in Germania. In Inghilterra c'è quella dove ho preso la radio, che c'ha, tra l'altro tratta molto usato, perché fanno ritirano le radio da, che ne so, da delle ditte, militari, civili, eccetera, poi le controllano e le rivendono in garanzia, e quindi ti può capitare anche un apparecchio magari graffiato, però perfettamente funzionante, garantito, che andandolo a comprare spendi anche qualche migliaio di euro, ecco. Ripeto, purtroppo adesso si stanno attrezzando per spedire dalla Germania anche loro. Guarda, se tu adesso vedi, dai uno sguardo su eBay e vedi il mercato inglese, caspita, è una cosa enorme, c'è un tanto di quella roba usata che è incredibile, a prezzi ottimi, solo che non compra più nessuno lì adesso. Peggio per loro, dovrebbero fare qualcosa, insomma, per almeno per il commercio, così sono fregati veramente. Ho trovato qualcosina di buono dalla Spagna, che ci sono dei negozietti che si può comprare dalla Spagna e anche dalla Grecia, che ti mandano tutto. E se ci stavo attento c'è da fare l'affare. Sì, ho visto che c'era ad esempio un ottimo mercato di roba militare, di radio e così via, da Israele, però come spedizione è altissima, poi c'è anche la dogana in mezzo, quindi corri il rischio di comprare a un prezzo e poi dover smossare altrettanto quando ti arriva il pacco qua in Italia, perché ci mettono sopra l'IVA e così via. È sempre un problema quello. Ok, Giacomo, ti devo lasciare un attimino, mi devo assentare, magari ci riprendiamo tra un po', Sì, ok, ci risentiamo, dai, perché anche adesso mi devo allontanare un attimino, perché ho lasciato gli attrezzi fuori, ma sono ricordato ora. Ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, buona serata. Buona serata anche a te. Sì, ti ascolto, ma mi devo allontanare un attimo. Più basso. Vabbè, ma funziona di radio, esce di radio. Ho voglia. Va bene. È un Airbex 2002, un bel vecchio, Sì, fra, bene, solo un attimo, sta chiamando Marina. Cara, tutto sotto controllo, grazie. Ricordate che si ascolti bene, non però. Cara, positivo, è tutto da far Roggero, qua. Tutto sotto controllo, frate. Tutto cambio, passo chiuso, capo. Ora? Ma hai sistemato l'antenna? No, sono una marina, no, ancora non me l'ha adatta. Non me l'ha adatta, Robè. No, comunque il segnale è tuo, Non c'ha niente con l'antenna. Tu sei 9 e quasi 20 qua. Mi arrivi sul più. Tra il più e il 3. Avanti. Capito cosa è successo, tu? Sinceramente rimango un po' stupito. Ciao già, cosa Robè? Rimango stupito, perché se magari sta andando tutto bene, Ma non fa nulla, ma è un attimino, Chi lo sa, ma è il vento che ha fatto forte, ma la mia era messa male, Proprio messa malissimo, proprio ossidata, avanti già. Sì, Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli altri amici, non so chi ci sia, sono entrato adesso. Era Franco California, adesso è Franco California, vita mia che peccata. Ciao Gianni, ben sentito. No, anche il segnale Gianni è buono qua, 9 più 30, buh, che strano, buh. Magari controlla il piede sopra, magari se col vento, con buon vento, le facendole a volte succede. Ma è tutto fatto a regola d'arte, nel senso che ho fatto anche in modo che non faccia leva sul coso, cioè l'antenna rimane sempre dritta, non si muove mai, la punta un pochettino oscilla, ma il resto è tutto fatto con l'anfeno, con l'etorianfeno, tutto sigillato bene, le fascette, no, c'erano dal 2005, non ho mai subito nessun problema, non lo so, non so cosa è successo. Vabbè, tanto quando ci avrò tempo gli farò la manutenzione, devo cambiare le ralle che sono un po' rugginose, così è la scusa per metterle nuove, verificare tutti i tiranti, perché accendere laggiù con l'antenna non è uno scherzo, mi già l'ha vista Luca, sono 9 metri di antenna, non è una buffonatura. Lo so. Però le antenne prendono l'ossido e cose, ogni tanto bisogna scenderle, pulirle e farle, se no si calcifica poi e succedono queste cose. Adesso io sto uscendo con l'accordatore LMT3000, l'ho staccato perché l'ho utilizzato per le HF, e l'autonomo del taggi come si chiama? TM1000. A me bene, sì. Sì, il segnale è forte, niente da dire, 9 più 30. Ma di lì come sta arrivando? Vabbè, siamo vicini, è inutile fare collegamenti, bisogna chiedere a quelli lontani. Come arrivo di lì? Niente è cambiato da te, Gianni. Non lo so, Robert, perché mi è venuto... Scusa. E di lì invece Luca, la tua fidanzata, come che antenna sta usando? Luca si è allontanato. No, si dice fidanzata, si dice 25, che cazzo ne sono? Chi è avanti? Si dice compagna. Chi è che sta che ha parlato? Io. Non tu, già un altro c'era sotto. Gianni la scimmia, Chi è latino? Giovanni la scimmia, avanti Giovanni. Alla linea. Ciao. Oh, Dani, ma... Oh, Dio che Dani lo salari. Non ho fatto mettere insieme a me. Ciao a tutti, Ciao, Dino. Dimmi, per carità, ma guasto veramente. Lo lascio perdere perché è veramente guasto. Sì, adesso te ne sei accorto. Vabbè, signori, sono impegnato, cena, divertitevela. Ciao, Sano è un agnellino, ma ne embriago è due più forti di Sassari. Era poi che fare in mezzo giaffo. Ciao Gianni, ciao Roberto, ciao a tutti, ciao. Tino, avanti Roberto. Saluto a Tino, ma probabilmente è in situazione precaria perché sta arrivando 9 Tino. Sì, c'ha la striscia quella piccolina, là. Robè, ma tu sei con l'accordatore inserito, no? Sì, c'ho l'accordatore inserito, per cui è tutto da verificare. Comunque sì, sono come al solito. Vabbè, a casa arrivi in basso, no? Perché sono senza antenna io, capito? Cioè, praticamente con il cavo solo sto uscendo. Togli l'accordatore e guarda quanto stazionare. Prova Robè. Adesso è diretto. Sempre uguale. Allora, chissà cosa è successo, a meno che non ho toccato le MT3000 senza accorgermi, ho toccato magari l'accordatore, perché quelli sono un po' sensibili. Comunque adesso non me ne sta segnando stazionario, c'è diretto. No, venuta. Non ne ho stazionario. Chissà cosa è successo, si è ripresa questa gaga dall'antenna. Non c'è niente, ma ok Robè, l'umidità. L'unico problema dovresti provare domani mattina. Durante la notte c'è l'umidità e vedi un po' se te lo fa. Io sto così, attacchi un attimo per la prova. Guarda, adesso sono diretto e questa radio c'ha la cosa, il rosmetro incorporato, misura stazionale, è zero, cioè proprio uno, neanche sale l'ancetta, proprio nulla. La potenza, vediamo, con i picchi sono positivi, chissà cosa ha pigliato, mica ne ha preso di acqua dal 2005, sono 17 anni, l'ho messo a gennaio 2005, siamo 2022, non riesco a capire cosa lì si è preso, perché adesso è staccato l'accordatore, c'ho quasi uno e uno, neanche si muove, meglio così dai, mi evita un rompimento di scatole. E vabbè, siamo a posto, dai, e ho visto che c'è un bel po' di lavoro a buttarla giù l'antenna. Poi con la roba là è buscata? Ho capito già, scusa, ma sono un po' lecco. Ho detto, sei buscato quella roba che ti mancava? Quella roba che mi mancava, come si dice? Non ho capito, sì, la base di sotto sì, l'ha data Danilo. Ah, quindi... No, cazzo, il palo e basta. Ne ho comprato un palo da 40 da 2 metri. Se lo trovi, se sono un misura di mezzo non ne ha. Perché io se l'ho chiesto e ce l'aveva solo un po' più piccolo. Ma dove? Da Marcino. Ma che misura state cercando per te? Devo mettere la 40, roba di destra la manto fa. Quella non è misura, quello deve prendere un tubo gas, non deve prendere un tubo normale in pollici, sono tubo gas si chiama, una misura per il gas. Domani faccio un salto, domani sera. E io non fare errore a Giovattivo che ce l'avevo entrata a forza, che avevo tagliato dentro, grazie, mamma mia, me la voglio ricordare quella roba. Vabbè dai, se c'è qualche difficoltà chiamami Luca, già ti accedo una mano io per quel poco che ti posso dire. Dimmi una cosa, cambiando totalmente il discorso, scusami un attimo Gianni, io c'ho il portatilino mio Luca, e devo scaricarmi tutti i dati, me li mettono nella chiavetta, non c'è tanto niente, niente importante, cioè importante sì, però niente di quantità. Una volta che io mi ho scaricato tutto quanto, voglio svuotare tutto quanto, formattare, è complicato. Aspetta, ma Roberto, ho seguito, ripeti, scusa. Di nuovo scusa Gianni. Allora, il portatile Toshiba mio, che è un treno, sempre andato, mi ha dato fastidio, però non l'ho mai pulito da quando ce l'ho io, sempre ci sarà una marea di mondezza dentro, ed è lentissimo a partire, a connettersi a internet, tutto quanto. Io volevo caricarmi tutte le informazioni su una chiavetta, dopodiché svuotarlo completamente, come quando torno a casa, a formattarlo e reinstallare Windows 10. Complicato da fare lui. Assolutamente no, porta ma te lo faccio, non ci sono problemi. Ma a tempo lungo è? Ma no, un giorno, dai, tempo un giorno, ma porti di mattina, lo faccio durante la notte, domani te lo do. Ma siccome io sino a domani lo uso, se te lo dovessi portare te lo vorrei portare di venerdì, e per dire me lo puoi dare anche la domenica, dimmi di venerdì, scusa, di sabato mattina, e me lo darete anche la domenica con calma. Ah, ho capito, ho capito, ascolta a me, sì, come vuoi, salvati tutto, è salvabile, io te lo resetto, non c'è problema, ma per quanto riguarda l'avvento la sporca c'hai anche. Luca, stiamo parlando di un portatile che io non ce l'ho dal 2013, non gli ho mai fatto niente, non mi ha mai lasciato a piedi, grazie a Dio, facendo le corna, e ho un treno quel computer, è lento, non so, lento nel senso perché non l'ho mai pulito, l'ho lasciato con tutte le cose, ci saranno un miliardo di cose dentro che ti blocca tutto, poi mi aveva messo questo cacchio di antivirus che non serve a niente, ma lo rallenta ancora di più, ho cercato di toglierlo, però forse non l'ho tolto, ti ripeto, io non ne capisco niente di computer, so fare le cose elementari, ecco, però è il computer dell'officina, quello che utilizzo per fare tutti i lavori, fatturazioni, preventivi eccetera, e mi serve quello, non ho modo di sostituirlo. Ok, se Mari è, ci mettiamo d'accordo Luca, e te lo porto con la paga naturalmente. Tu non ti preoccupare, portalo, fregatene, non stiamo parlando di paga, salvati tutto quello che devi salvare, poi già ci penso io. Kappa, ti ringrazio già in anticipo, vai Gian. Io una punizione intanto va fatta, perché poi per quanto tu lo pulisca rimangono sempre dei file, poi tutte le cose che guardi, vabbè che tu forse per, non lo usi per altre cose, lo usi solo per lavoro, vabbè. Sì, lo uso solo per lavoro, però siccome ci sono un bel di informazioni, quando mi arrivano delle poste, delle cose, scansioni che ho fatto, viene poca di mondezza dentro, cose che poi non me ne frega niente, e sarà completamente impalato prima di partire, cacchio, tu deve, quando ci impiega di partire quel computer Luca, non parliamo, per chiuderci devi aspettare 2 minuti minimo, cioè è lentissimo, poi una volta che si connette internet va bene, ma prima di partire vabbè, ma è adattato come computer? Sì, è adattato, però c'ha già Windows 8, ce l'aveva quando l'ho preso, l'avevo preso che era in offerta da cosa, da Conforama, un giorno solo, costava 700 euro, l'ho pagato 2,99, 300 euro, l'avevo messo solo uno, ne era arrivato, l'ho preso al volo, l'ho beccato subito, è andato sempre, va ancora bene, la batteria adesso da quest'estate non tiene più, infatti è morta, lo devo mettere senza, con l'alimentatore diretto. E non ti preoccupare Rob, tranquillo, ascolta, cosa ti volevo dire, portamelo sabato, vabbè, poi sei magari adesso cosa da fare, se ti viene bene io già sono a casa, mi fa uno squillo, ci vediamo, me lo porti. Aspetta, c'è qualcuno che parla, chi è avanti che parla? Che bello. Il segnale già va bene, ma la radio è bassa. Ho Ok, okay, scusate un attimo, sul 12 va. Sì, a fare il fatto. Ma che se vanno pure il platamo la quarta arrivano 9, ma radio non ne ha. Che bagara! Dove sta andando bene, roba è giù, si da giù, sì. C'è 9.15 con i picchi quasi 9.20 arrivi. E cosa, scusatemi, no, la formattazione cosa ti comporta? Cioè ti svuota completamente tutta la memoria del computer, Luca? Cosa roba? Li sento a Gianni, cazzo, tutti i canali di video ce l'hanno proprio su Udodio, ti aspetta che attenuo, vai! Ho detto, la formattazione cosa comporta? Ti cancella tutta la memoria del computer? Tutto roba, te reinstallo il sistema operativo, cancello tutto la merda che c'è dentro. E quanto dura l'operazione della formattazione? Diciamo con Windows 10 o 7 subito, cioè 40 minuti, fai in un'ora faccio tutto, dai. Questo c'ha Windows 10, poi mi va anche poco fa un aggiornamento, non so se si sia già messo l'11 pure, ma è una gaggada, una cosa fastidiosa, quanto era meglio Windows 7 nell'altro computer, questo è nato con Windows 8. No, Windows 8 non serve a nuda, a me non è mai piaciuto, Windows 10 bene o male, già va bene, dai, non è questo, come si dice, non è male, ecco. A me ancora non, nel mio c'ho sempre 7. Io mi trovo bene con 7, non fa più aggiornamenti, ma non mi interessa. Però Luca, non mi mettere, tipo quando te lo porto, sperando di riuscire a liberarmi sabato, non mi mettere antivirus o niente, lascialo così, come tanto io non vado, non devo navigare in cose strane. No, non te ne metto, antivirus, a parte che è mondezza adesso, non te ne metto antivirus di free, è mondezza, te lo via solo il computer e basta, te lo rallenta. Non lo so, infatti, ma la metto quello Kaspersky, come si chiama? Kaspersky? Quello sì, a pagamento quello lì è un boom bijou, però ti consiglio l'altro, il Norton. Ma non mettere, non voglio, proprio tanto ti ripeto, io lo uso solo per fare fatturazioni e scansioni, per dire, quando mandare qualche documento via mail, non faccio niente di entrare su siti, è un computer solo per lavoro. Allora va bene, no, vabbè, io non le metto, io antivirus free non le metto mai. Ok, me lo chiedo, allora sì, ma non si viene a nulla. Ma infatti, tanto te lo rallentano e poi se deve entrare il virus ti entra comunque, che tanto c'è gente che studia apposta per entrare con qualunque sistema di virus. A meno che non c'è l'aggiornamento, ogni giorno c'è un aggiornamento, ma lasciamo bifi. Ok, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10, avanti chi c'è? Ci sono io, sono entrato. Se ti sentivo di sblatter già. Allora ho dovuto attenuare a Roberto. Anche io ti sentivo. Siamo vicini già, Ma chi era Gianni? Giovanni quello di Platamona? No, non era quello di Platamona, era la portottore. E chi era? Lo sentivo 9, però era basso di radio. Ma no, poi l'ha regolato, sentivo bene. Scappa. Ma vostro amico se c'è da papapango? Sì, vabbè, stava facendo le cose, poi c'era qualche camionista. Non è coso Claudio quello di Porto Torres? No. È coso Eugenio, ho sentito, sono da un po' che non lo sento io. Ultimamente no. Ah, vabbè, ero lì, la fermata del tram, no? Se tu vai più avanti c'è la municipale, giusto? C'è tutte le macchine sequestrate. Ma nel portile sta dicendo, sì. E lì c'è molta gente, hai visto? Ci sono incidenti gravi, lì ci sono macchine di morti pure. Ho visto che c'era la scientifica. La scientifica? Che macchina stava guardando? Il carattrezzi. Il carattrezzi? Quello che era tutto coperto. Via. C'era scritto polizia municipale scientifica. Ah, vabbè, non è la polizia, no, già ho capito, no, pensavo la polizia di Stato, infatti, non lo so, quello che erano sequestrato, già lo conosco il proprietario, perché era senza assicurazione, un po' di cose strane. Ho capito, vabbè, comunque stavano controllando, vabbè, avanti già. Ehi. Invece l'altro giorno vicino a casa tua, chi era quello che hanno preso con l'ambulanza? Quello che aveva il coronavirus? A me stai dicendo? No, a me. No, un signore aveva praticamente la cosa, come si chiama? Non la pressione bassa, l'altra. Che cosa, se non mi ricordo, ci metti il dito anche, ti segna la saturazione. La saturazione sa cosa? Dell'ossigeno. Basso, sì. Perché l'ambulanza era quella dell'ospedale, erano proprio quelli dei dottori a bordo con il personale infermieristico della SL. Sì, lo so. Ci ho visto. Non era il corso sardo o altre ambulanze. No, c'è una saturazione bassa. No, ho capito, vabbè, là, non l'hanno portato via qui. Come? Non l'hanno portato via. No, avanti Robert. Ma vabbè, ho fatto l'ambulanza, sta diventando una cosa allucinante, capito? Ce ne sono 2000 di ambulanze, la giamma nel burro, se c'è il dito la lunga del piede scheggiata, ti giamma nell'ambulanza. Guarda, ho visto delle cose. L'altro giorno mia figlia non stava bene, e ho detto non ci andiamo neanche a pronto soccorso, a perdere tempo, sono andata alla Guardia Medica di notte, che saranno state le 10. Sono andate lì, gentilissimi, lì fanno i controlli, se sono cose importanti naturalmente ti mandano a pronto soccorso, chiamano l'ambulanza per le fesserie, ho visto delle chiamate di ambulanza di gente, ma dico, ma pensa alle cose più gravi, qualche volta ho visto persone che hanno chiamato l'elicottero, il bambino si è preso una torta nello scoglio e hanno scomodato l'elicottero, perché erano lo scoglio a Sintino, non so, quindi, ma cose allucinanti, io sono di quelli che si chiamano le ambulanze solo in caso di emergenza grave, se no la so abisì. Cioè, quanto costa un elicottero spostarlo? Mi sembra, non ti voglio dire, mi sembra questi 10.000 euro a ora, una cosa del genere, una cifra esagerata. Cazzo! Ma sta diventando una moda, io posso capire un incidente stradale grave, che sei in una zona, per dire, Nogliatra, che di lì viene male i soccorsi, il più vicino ospedale è a 40 km, quello va bene, ma qua in città le ambulanze arrivano in 3 minuti, cacchio, se ci metti, fai che ci mettano 10 minuti perché ci sono, in ogni paesino ci sono, cacca, e c'è una ambulanza, vai prima a casa tua, lo carichi e te lo porti, certo se sei in pericolo di vita, di coso, stai morendo dissanguato, ma io a quel punto rischio e me lo carico in macchina e lo porto. Perché secondo cosa c'hai? L'ambulanza, per dire, se c'è un ictus deve intervenire entro 10 minuti, se no è una cosa permanente, ti fa dei danni permanenti. A grande arrivo l'ambulanza è già finito. E poi ti chiamano, io ho visto delle chiamate di ambulanza, siccome ho amici che lavorano delle ambulanze, lasciamo perdere. Quando arrivano di lì, adesso sta bene, dai, ci aveva un po' di mal di testa e cose varie del genere. Infatti, è per cazzate. A me è successo tanti anni fa, tanti anni fa, tipo sì, 7 anni fa, 8 anni fa, boh, mal di pancia forte, alle 2 di notte, questo mal di pancia fisso, e mi sono dovuto chiamare l'ambulanza, che non voleva, a parte che non potevo andare, non c'avevo un mezzo, niente, sono stato a costo, ma stavo male, roba male, poi sono arrivato lì, erano le 2 di notte circa, l'una e mezza, se non mi ricordo, vabbè, mi sono fatto tutta la notte lì, perché non mai me ne sono andato, ho fatto la flebo, con antidolorifico, ma mal di pancia di quello fisso, ma stava prendendo anche al cervello, guarda. Ma cos'è, erano colite? Per quanto riguarda i calcoli a cistifellea, capito? Lo so, sono dolorosissime, io ho avuto i renali e c'è un dolore più forte di quello, non ce n'è. Io di tutti i dolori che ho provato, da buttarmi in terra, da morire, a vomitare dal dolore, da lo so cosa vuol dire. E cosa volevo dire? L'altro giorno invece, scusa Gianni, di nuovo il monopolio, l'ho tentata apposta, siccome questi sono furbacchioni, non faccio né nome né cognome, però questi con l'ambulanza, infatti poi gliel'ho detto a un'altra persona, che l'ho trovato da lì punti salendo, agite e vede i ghisti, tranquillo, camminando, accende l'ambulanza, la sirena e si mette a camminare sul passato, poi aspetta che lo segua a vedere dove sta andando questo qua, ha fatto tutto alla 131 sopra Cittamercato, poi è salito Monserrato, girato e riesce a vedere dove va, non c'è andato all'ospedale, ha girato verso l'ippodromo e poi da un'altra parte che non dico perché sennò si identifica, e si è fermato, si è pusato e se n'è andato alla sede questo qua, però lui stava andando a fare un soccorso, infatti ma che sta andato facendo questo, se deve andare alla cosa non passa mica da lì all'ospedale, passi dritto in Viale Italia, no, ha girato il pezzo dell'ippodromo e poi è andato da un'altra parte, quando è arrivato quasi al posto aspetta la mura, la sirena si è fermato, l'ho seguito sino alla fine, se l'ho seguito sino alla fine, ok, però lì vicino all'ippodromo si a terra l'elicottero, l'elicottero del 118 praticamente portano feriti grave, l'ambulanza va lì a prenderli, capito? È possibile che sia andato lì per prendere qualcuno che stava male, però se ne è seguito sino all'ultimo, no? Gianni, all'ippodromo ha spento l'ambulanza e poi è andato dove doveva andare, da un'altra parte, non ti dico i punti perché chi lo sa dove sono già lo capisce, e io l'ho seguito sino al punto dove si ferma, se ne è fermato e se ne è sceso, non aveva nessun paziente a bordo. Comunque non atterra più l'elicottero lì a Rizzetto, E chi l'ha detto? A terra, adesso che non atterra va più, non esiste più quelli lì porto. Tutti i giorni a terra.